gero gehiago lo ditu. Bultzatu, bortzatu, lo bitzen jarraitu. Dagur lortzen artean, nahazkeren abaitu. Hazik zaka berazak, zonik zaka berazak, zonik zaka berazak, kanitzak, kanitzak, kanitzak aberazak. We'll be right back. bar. Everything is great. There is always noise. Oh, then my tennis ball. A silent break. The silence of the night. Here's time to start the war. Working class heroes. Children without time to pay. Working class children. Heroes of the working class. Heroes. Working class heroes. Heroes without time to play. Heroes. Working class heroes. All children. Without facilities, a long way from the parks. You only have the street. That is where they have lived. Many bright children. That is where they live. Many bright children. A silent breaks the silence of the night. It's time to start the war. Working class heroes. Children without time to play. Working class children. Heroes of the working class. Heroes. Working class heroes. Heroes without time to play. Heroes. Working class heroes. All children. Of the working class. Heroes, working class heroes. Heroes without time to play. Heroes, working class heroes. All children. Heroes, heroes, working class heroes. Destruction! Guantanamo Bay! No

per la classe operaia, sono destinato a rimanere disoccupato, pensando colpa dei servi dello Stato. Sono fascista nudo e chiudo, custode duce me lo fa venire duro. Togli cocaina come Dio Berlusconi, sento potente ma sono stato dei padroni. Faccio il martello, tutto è più bello, faccio il martello, poi parlo anche tu. Faccio il martello, tutto è il fasello, se ve lo non fisero mai più. Faccio il martello, tutto è più bello, faccio il martello, poi parlo anche tu. Faccio il martello, tutto è il fasello, se ve lo non fisero mai più. before taking some sugar crush. Jimmy Config won two, the bills in from the local brewery. Oh! Jimmy Nook came round.